fossi yo y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. In una puntata di Melog del 30 marzo 2009, sulla quale poi siamo ritornati anche, abbiamo deciso di sfatare il mito per cui è importante essere belli dentro. No, essere belli dentro, brutti fuori è una grande disgrazia, è meglio essere belli fuori, brutti dentro, quindi si avrà grande successo nella vita. Ascoltateci, anche se siamo stati molto cinici. Ci sono vari punti di partenza per arrivare a una riflessione che mi sembra fondamentale nella nostra contemporaneità, che è quella del ripensamento del proprio corpo, della propria carne, di ciò che ci rappresenta più all'occhio del nostro prossimo. Noi abbiamo fatto una trasmissione venerdì dedicata in maniera scherzosa, era poco più che una facezia, all'orgoglio della bruttezza, questa drastica classificazione attraverso criteri estetici che non corrispondono più a nessuna piacevolezza, a nessuna armonia determinata da ferre leggi che traggono le loro equazioni da una sorta di disegno di perfezione corporea o di tentativo di mirare a un modello più che umano di bellezza. No, oggi la bellezza è semplicemente è ciò che viene descritto e circoscritto da alcuni esseri semiviventi che sono coloro che rappresentano i punti più luminosi dell'Olimpo dello Star System, coloro che vediamo rappresentati continuamente, le cui immagini luminose sovrastano le nostre grigie esistenze. Chi non è in linea con quei modelli di perfezione e di bellezza, anche se poi oggettivamente, secondo classici canoni di valutazione, non sono affatto belli, hanno delle enormi disarmonie, delle scompostezze, soprattutto delle rudi violenze a quella che è una sorta di armonia naturale alla quale siamo abituati, ma noi siamo pronti anche a cambiare le nostre percezioni e il nostro condizionamento estetico. La conclusione a cui eravamo arrivati venerdì è che era in fondo che la bellezza non conta tanto, la bellezza non conta molto, non è importante essere belli fuori, ma è importante essere belli dentro. Oddio, avrei, sfogliando i giornali questa mattina, qualche profondo dubbio. Leggo una storia tristissima di un geometra cinquantenne che si è suicidato perché è rimasto senza lavoro, ha cercato disperatamente, non ha trovato lavoro e quindi si è suicidato. E altresì ho trovato una meravigliosa ragazza, già hostess dell'Alitalia, già concorrente del Grande Fratello, che ahimè, poverina, anche lei era rimasta senza lavoro, ha subito trovato chi l'accogliesse come meteorina del TG4. Stamattina c'è una dichiarazione del direttore Emilio Fede, dice: ho voluto dare una chance in più a questa persona che è rimasta senza lavoro. Già, ma perché al geometra nessuno ha dato una chance in più? Perché? Perché l'aspetto estetico comunque ha il suo valore. Non voglio dire che solamente per la callipigia o per la portanza mammaria o per la leggiadria della camminata di questa ragazza che ha trovato lavoro, ma sì, comunque questo ha contato nella sua vita. Oggi ti faccio i complimenti per la trasmissione, questa qua sulle cozze e sulla bruttezza, anche se mi ha fatto veramente accapponare la pelle l'idea che tu conosca delle cozze freddie, che guarda, non so che cosa tu ci possa fare, quindi, mamma mia, vabbè, lasciamo stare. Quando si è belli, cioè io nonostante i miei 53 anni, mi dicono: ma com'è che lei è rimasta sola tutti questi anni, così bella com'è, carina com'è? La taglia è la 44, quindi io dico: beh, se non ho trovato un compagno, perché devo andare con uno qualsiasi? A 30 anni ero uno schianto, oggi ne ho 53, sono sempre carina, però la gente rimane così: ma come, sola? Tutti questi anni? Beh, io sto bene così, la mia bellezza lascia che se ne va piano piano con gli anni, poi se a 70 anni reggerò bene, meglio, no? Però stare belle sole sembra tanto strano. E già sembra tanto strano, perché sembra quasi un oltraggio, uno spreco, e come diceva una me da bambino, non buttare via quella bella fettina, pensa a tanti bambini africani che muoiono di fame, non buttare via l'avanzo del dolcetto, non buttare via la mela smordicchiata, perché? Perché è un oltraggio, un frutto della natura così desideroso, sembra quasi, anche nella sua apparente mancanza di principio, di determinazione, di essere consumato. Ciò che è bello merita di essere consumato. La bellezza non consumata, la bellezza lasciata a se stessa, naturalmente provoca un senso di angoscia, provoca quasi un oltraggio, come quando Claudia Cole si è fatta santo, si è fatta monaca. E siamo tutti stati colpiti dentro, non ci importa niente se una donna che, o un uomo anche, che non ha carattere di profonda avvenenza fisica, decide di consacrare la propria vita alla contemplazione o alla mortificazione della carne. Non so, fa una persona di cui abbiamo immagini conturbanti, a cui dobbiamo ancora o devono ancora le generazioni che sono susseguite naturalmente alla mia esistenza un calo così drastico delle loro diottrie, poi vederla pensare a qualcos'altro che non è il proprio corpo. Beh, il corpo quindi ha un grosso valore. Il bel corpo comunque rappresenta qualcosa che è una importante condizione legata alla nostra esistenza. Siete sentito, questa ascoltatrice ha detto che lei in fondo è sempre stata bella, la bellezza le è servita, ma lei ha la consapevolezza di rappresentare quasi un oltraggio, quasi uno schiaffo alla fortuna che l'ha fatta così bella. Perché sei così bella e non offri la tua bellezza, non consumi la tua bellezza, non rendi partecipe il mondo la tua bellezza? È così importante il corpo? 800 24 00 24. Ciao Gianluca, sono Ricky e sono cieco. Io mi accorgo dell'avvenenza della donna, ragazza che ho davanti, anche senza vederla, dal comportamento degli altri. Un episodio, per esempio, è quando si è in un pub, in un locale, si ordina qualcosa da bere, e se la cameriera è particolarmente carina, io riesco a ordinare per primo, perché mentre i miei amici sono occupati a scansionare l'immagine della signorina, io tranquillamente ordino senza lasciarmi, diciamo così, distrarre da questa cosa. Da premettere, però, secondo me, è anche che il valore aggiunto di una donna è proprio l'apparenza, purtroppo oggi è così. Tanto è importante per un uomo il potere d'acquisto quanto l'avvenenza fisica è importante per una donna, e bisogna essere sinceri, il comportamento è diverso. Le belle donne che riescono quasi a prescindere dalla loro avvenenza hanno un buon rapporto con me, e invece ho notato che quelle che appunto basano la propria esistenza sul loro apparire sono spesso in imbarazzo, soffrono quasi di non poter utilizzare questo loro strumento, di essere disarmate davanti al mio handicap. Andiamo avanti nella nostra folle ricerca del paradosso, sempre come eco della trasmissione di venerdì, di cui oggi riprendiamo naturalmente una festosa appendice. Continuiamo a parlare della bellezza fisica, del valore che diamo all'estetica della nostra carne, della discriminazione fra l'essere belli e l'essere brutti, o quanto l'essere brutti in realtà potenzia delle facoltà quasi da supereroi che non immaginavamo possibili albergare in un essere umano, per compensare questa non adeguatezza a canoni estetici eccelsi. E quindi le persone brutte sono persone affascinanti, sono persone intelligenti, sono persone volitive, sono persone che sanno conquistare. Se sono donne, sono donne sensualissime, sono donne maestre di ogni arte sensuale. Beh, il nostro amico cieco ci ha telefonato e ci ha detto che anche lui vede la bellezza, anche lui sente il disagio delle persone belle, in particolare delle donne belle, soprattutto per lo stesso principio per cui la bella ascoltatrice poco fa si sentiva guardare con sguardi di commiserazione. Come sprechi tanta bellezza, sei sola, non concedi a nessuno il piacere di godere della tua bellezza. Per la stessa ragione la bella di fronte al cieco si sente sprecata. Come? Tu non hai occhi per guardarmi. Spesso le belle donne come difetto si possono permettere, credono di potersi permettere certe cose. A me è stato più volte detto alle spalle da un amico: guarda che quella mi ha detto che tu la stavi fissando, e il mio amico rispondeva: guarda che Ricky non stava fissando nessuno perché è cieco, spesso non se ne accorgono di questo mio handicap. Quindi sì, queste ragazze, queste belle donne che si sentono sempre al centro dell'attenzione spesso fanno degli orroracci terrificanti. È meglio che si ridimensionino un attimino e non credano di essere sempre comunque al centro dell'attenzione. Certo, la donna bella, ma diciamo la persona bella, perché esiste ormai una categoria certificata, proclamata, glorificata di uomini belli, sul cui lo spessore generale umano viene molto deriso. Nessuna donna ammetterebbe di ambire alla compagnia di un bel tronista o di un bel personaggio alla televisione, ma chissà se poi è vero. Forse anche questo mi piacerebbe, in questa mattina in cui cercherò di tirare fuori le confessioni più riposte riguardo alla bellezza. Noi ci sentiamo molte volte complessati, quasi con dei sensi di colpa, nell'ammettere che siamo attirati da qualcosa che è esteticamente bello, e ancora peggio, è bello secondo dei canoni che vanno di moda. Guai dire che ci piace un uomo o una donna che rappresentano un modello estetico popolarmente acclamato. Io l'altro giorno ho detto, secondo me non è bella Valeria Marini, ma ho fatto un gesto probabilmente di grande snobismo intellettuale. In realtà probabilmente è bella perché il mondo la vede come tale. Beh, la donna bella, che è abituata comunque a avere sguardi che la ghermiscono, che la desiderano, dai quali può impugnare lo scettro dispotico di colei che dice non mi guardare come ti permetti, beh, rimane male di fronte al cieco, che la guarda sì, ma soltanto per percepire le attenzioni che attorno a lei, e questo è l'unico indicatore che lui ha per sapere se lei sia bella o brutta. Volevo completare il concetto dicendo anche che non è per niente vero che le cotte siano tendenzialmente più simpatiche delle belle donne, anzi purtroppo anni e anni di cozzaggine spesso le inacidisce a tal punto che diventano pesanti. Invece ci sono tante belle donne che non hanno nessun problema a sostenere una conversazione colta e che mi risultano più simpatiche, più sciolte, più tranquille di tante altre, ripeto, che forse per colpa del fatto che questa società ti impone di essere bello o bella, insomma, le abbia un po' rovinate. Comunque, cozze, avete diritto di esistere e avete tutta la mia solidarietà, però insomma non inaciditevi, perché si riesce a percepire, ripeto, si riesce a percepire da un cieco che state male dentro per questa cosa, andate oltre. Se lo dice un cieco può dirlo. Lui può dirlo senza essere lapidato, lui può dirlo senza che nessuno abbia l'ardire di replicare come ti permetti. Però dice una cosa giustissima. Molte volte il nostro senso di insoddisfazione per non essere all'altezza di un modello estetico che noi alluciniamo, che non è detto che per assoluto sia quello che darebbe a noi la felicità nella coincidenza con la nostra persona. Diventiamo acidi, diventiamo cattivi, diventiamo veramente antipatici. E capita molte volte di vedere donne che sono molto più brutte perché si sentono brutte, e vedere altresì donne che in realtà non sono perfettamente in linea con un modello estetico di cui stiamo parlando da due giorni, ma che sono bellissime perché hanno una profonda, inesauribile fiducia, quasi spocchia in se stesse, e quindi la loro sicurezza le rende affascinanti. Buongiorno Patrizia. Buongiorno a tutti. Volevo testimoniare il mio caso. Io ho imparato a vedere anche senza guardare. Quasi 16 anni fa dovevo fare gli auguri ad un mio amico di Roma, ho composto il numero del cellulare immediatamente dopo la mezzanotte, auguri di buon compleanno, probabilmente ero stanca, insomma ho sbagliato numero ed ha risposto un'altra persona, e io: Guglielmo, auguri, buon compleanno, happy birthday, da, da. Ed era invece il mio Paolo, e dopo 16 anni siamo insieme, dopo aver chiacchierato per ben 6 mesi telefonicamente, e poi ci siamo resi conto di essere innamorati, le teste si sono innamorate, indipendentemente da ciò che abbiamo visto. Beh, quando avete visto il resto, le teste cosa hanno pensato? Io è come se l'avessi conosciuto da sempre, con il suo nasone terribile, che probabilmente in effetti se l'avessi visto in un bar o a teatro eccetera non mi sarei avvicinata. Quanto tempo fa è accaduto questo, Patrizia? 16 anni fa. No, dico questo perché questo è un meccanismo classico, anzi molto usuale, che accade oggi attraverso i sistemi di comunicazione telematici. Sì. Oggi ora, chiunque si vede, si corteggia, si insegue, si annusa a distanza. Ora sì, ma io sono un po' anzianetta, ho 47 anni, la tecnologia non mi sì, ha dato... Se lei è anziana, signora, adesso non è per farle complimenti, ne ho quasi 10 più di lei, quindi... No. 15 anni fa era una ragazzina, perché deve sempre... questo mortificarsi per sentirsi dire non è vero? No, anziana per la tecnologia, non ho voluto prendere complimenti. Senta, ma quanto tempo è stata a farsi telefonate col nasone? Abbiamo, dunque, noi il 16 giugno abbiamo... Io ho sbagliato numero. Il 16 giugno, mentre ci siamo finalmente visti e finalmente baciati nel mio paesino Brianzolo, il 16 dicembre, 6 mesi dopo abbiamo... Sei mesi di telefonate? 6 mesi di telefonate, di racconti, di ansie, aspettare l'ora, poi una persona che io non avrei mai scelto perché non è attenta... Sì, ma mi spiega perché non vi siete visti prima, 6 mesi sono tanti. Non ci siamo visti prima, prima di tutto una persona era ed è una persona impegnatissima. Vabbè, impegnatissima. E poi perché avevo un po' paura di quello che sentivamo, ma proprio ci accorgevamo. Quindi quando... la passione dopo il primo bacio, dopo quanto tempo vi ha colto? Cioè quanto avete messo poi per la congiunzione carnale, così capiamo anche il meccanismo? Beh, dopo forse un paio di mesi. Sì. Altri 2 mesi di astinenza. Vabbè, complimenti, vi siete centellinati comunque le piacevolezze corporee, quindi probabilmente ve le starete godendo bene. Abbiamo accennato soltanto l'ambito, la possibilità di compensazione rispetto a una forma fisica che non rappresenta probabilmente il massimo, ma nella percezione comune abbiamo una nostra ascoltatrice che ci testimonia come si può essere non perfettamente belli secondo il giudizio comune, ma altrettanto affascinanti. Allora, io sono alta soltanto 1,50 m, ma mi sento più strafica di quelle di 1,80 m. Non credo di avere niente di diverso da queste silhouette filiformi, tutti occhi giganti ipertruccatissime. Io personalmente sono anche abbastanza morbida di forme, però cerco di mettere quello che madre natura mi ha dato per affascinare, pur non essendo tra i canoni delle donne belle. Questa ragazza sa perfettamente cosa può dare lei al mondo, sa esattamente che se uno riesce a superare il primo impatto, ma non perché sia orribile, ma semplicemente perché probabilmente non è una di quelle persone da cui uno rimane subito colpito per l'aspetto fisico, beh, sa, se superato il primo istante e poi si lascia andare al flusso del desiderio, beh, non dovrebbe proprio pentirsene. Io all'inizio vedevo tutte queste ragazze invece che erano più piacenti. A Roma si dice rosicavo, ma non so, forse ero troppo piccola, quindi non mi creavo tanto il problema. Cercavo di essere simpatica, come fanno tutte. E poi crescendo con 3 fratelli maschi ero un po' un maschiaccio, quindi magari interessavo ugualmente i ragazzi parlando di calcio piuttosto che scodinzolando come facevano le ragazze che facevano così all'epoca. Interrompiamo la storia della nostra ascoltatrice, che avrà modo poi di spiegarci nei particolari qual è il suo segreto e quale è il segreto che può trasferire ad altre donne, ma annuncio soltanto l'ospite che ci accompagnerà poi in parte della seconda tranche di Melog. Guido Guidi Guerrera, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ricorderete, Guido Guerrera è l'autore di Vivere alla Grande, il Galateo postmoderno di seduzione e tentazione, Liberti Editore, quindi è l'uomo che ha scritto un canone di seduzione. Guido, in seconda parte tu ci aiuterai a far capire quanto, se le cose stanno così, il vero seduttore non si ferma soltanto di fronte a una modello di bellezza conclamata a tutti i canoni, ma ha a volte anche la curiosità di andare a vedere le carte laddove sembrano non promettere nulla di buono. 800 24 0024. Stiamo riflettendo su quanto sia detestabile pensarlo, ma in realtà sia una realtà alla quale nessuno di noi sfugge. Il bello ancora ha un suo grande valore. Chi nasce bello è fortunato, chi riesce a avere mezzi, costanza e caparbietà nel costruirsi un aspetto esteriormente bello, comunque avvantaggiato rispetto al mondo dei brutti, al mondo dei dimessi, al mondo dei tristi. Ora invece, diciamo, mi sono aggiornata, sfruttando un attimino, spero, la mia intelligenza, cerco di arrivare a colpire l'uomo nei suoi punti deboli. Le donne di oggi devono essere un po' geisce, capire là dove c'è il lato debole e sfruttarlo a proprio vantaggio. Anche perché io sono dell'idea, come diceva una famosa modella, ha detto che non esistono le donne brutte, esistono solo le donne pigre. Io sono dello stesso identico concetto. Certo è che questa nostra ascoltatrice, che deve arrampicarsi sugli specchi, deve fare tripli e centuplici salti mortali per dare comunque una compensazione all'aspetto fisico che non riconosce all'altezza della concorrenza che la circonda, beh, anche lei probabilmente tende a rovesciare alcuni luoghi comuni, alcune tranquillità in cui si culla gran parte del genere femminile, che in fondo gli uomini non vadano cercati, gli uomini vadano tenuti a distanza, gli uomini vadano trattati con una necessaria austerità e sufficienza perché si possa averli ai propri piedi. Ma quando l'uomo diventa una conquista difficile, diventa un farsi strada con il macete in mano in una giungla di persone le cui caviglie sovrastano di gran lunga la nostra statura, beh, allora vale anche forse sentirsi geisce, vale forse anche cedere rispetto ai traguardi che sembrano mai conquistati dal genere femminile, pur di essere sempre all'altezza. Naturalmente, se una donna non è esteticamente una strafiga, proprio perché ha questa mancanza, quando incontro un uomo che lo soddisfa dal punto di vista sessuale, a quel punto veramente diventa una sorta di panacea di tutti i mali nei suoi confronti. Veramente può trovare la donna che a livello sessuale è più soddisfacente della bellissima ninfa che poi dentro è vuota anche dal punto di vista della fantasia. E almeno per esperienza personale ho notato che gli uomini erano molto più gratificati da una donna non bellissima, ma che forse gli stava più a sentire e condivideva con lui magari anche delle cose a livello fisico che altre donne non volevano fare, non se la sentivano per pregiudizi o quant'altro. Guido Guidi Guerrera, il buon seduttore è consapevole di questa alchimia di cui ha parlato la nostra ascoltatrice? Lei è una maestra di arte amatore, dice, tutt'è avere la forza e la costanza di darmi modo di mostrarvelo e poi non ve ne pentirete. No, no, Gianluca, allora qui bisogna fare un pochino di ordine. Noi dobbiamo capire che per desiderare la non bella, non chiamiamola brutta, la non bella, bisogna essere dei veri buongustai. Quindi per essere buongustai devi avere fatto un percorso di esperienze amatorie notevoli. Il giovane in genere vive una fase apollinea, no? In cui ama la strafica, la bella, quella che in fondo invidia al bellone della classe, occhi azzurri, capelli biondi, uno stereotipo, ecco. Quindi quella è la fase apollinea che avvicina in qualche modo all'idea di platonica dell'amore, della bellezza, eccetera eccetera. Andando avanti, infatti, per molti è anche una fase che si ferma allo stato ideale, ma sì. Poi invece vedi, la fase dionisiaca, che è la seconda fase e che può in qualche modo coinvolgere anche un giovane, è male, perché la corruzione in un giovane è un qualche cosa che anticipa i tempi. In genere il giovane che entra in questa fase di corruzione brucia le tappe. Ma poi ricordiamoci che anche la bella, la strafica... Ecco, perché parli di corruzione? Ma perché ci dobbiamo in qualche modo attraverso l'esperienza, dobbiamo smetterla di vedere le cose secondo un disegno, un canone geometrico, come se fosse un disegno geometrico perfetto. La corruzione sta nel fatto che diventiamo dei buongustai, che il gusto si raffina e perde quei canoni di bellezza oggettiva, no? Diventa sempre più relativo. Ecco perché arriviamo. Il piacere diventa un fatto molto cervellotico a quel punto, giustamente. Cerebrale, assolutamente. Vediamo se Bruna è d'accordo. Resta in linea, Guido. Bruna, buongiorno. Salve, buongiorno. Stavo ascoltando. Allora. Perché ride Bruna? Allora, io. Bruna, perché sì, sta ridendo? Sono d'accordo, cioè. Ma perché diciamo, rideva? Perché ridevo? Perché sono imbarazzatissima e emozionatissima. Ma per cosa allora, emozionata? No, volevo dire questo. Io non sono una brutta donna, no? Perché. Ma no, tutti ti dicono, ma sì, sono alta, ho le gambe lunghe, sono insomma abbastanza in forma, diciamo così, però io mi sento brutta. Io mi sento brutta e per cui non riesco a essere, non so, serena nel rapporto così con un uomo. E infatti tempo fa ho detto, guarda, vorrei innamorarmi di un cieco, in modo che questa persona non ti veda, però ti senta, cioè ti percepisce. Ha sentito, no? Ha sentito, quello, Bruna, il nostro cieco. Il cieco è molto più attento, la percepirebbe ancora prima che altri possano vederla, quindi questo suo sentirsi brutta sarebbe per lui devastante, molto più che magari un essere che può vedere, che giudica secondo il suo criterio di giudizio. Ma diciamo, sentirmi brutta, alla fine lo so che non lo sono, no? Però e allora soltanto Civetta vuole sentirsi dire che è bella. Nulla di male, è meraviglioso, ma... Insomma, non lo so, penso che qualsiasi donna voglia sentirsi dire sei bella. Ma anche qualsiasi uomo, guardi, non pensi. Sentirsi dire sei intelligente, sei colto, mi piace come parli, alla fine diventa noiosissimo. Uno preferirebbe dire, ma guarda, mi piacerebbe mettere le mani sui tuoi pettorali d'acciaio. Uno preferirebbe, ma non accade mai, naturalmente. No, è troppo diretto. No, comunque, non è... Cioè, è proprio per andare oltre all'immagine che uno è. Cioè, non è dire, sì, vorrei che qualcuno... Cioè, innamorarmi di un cieco... Certo, è più sensibile, io di questo sono sicura. È proprio per questo, cioè, perché non c'è l'occhio. Dopo, non so, poi... Non so cosa dire, insomma, questo è il mio pensiero. Vabbè, ma non si abbatta, perché alla fine a lei piace sentirsi dire che in realtà è bella e non è brutta. Lei è consapevole di avere una forma appetibile, lei deve solamente avere questo vezzo molto femminile, ma in realtà appartiene al genere umano, di essere lusingata del fatto che sia piacevole. Quindi rientra in un gioco che ben conosce Guido Guerrera. Guido. Infatti, guarda, analizziamo proprio l'immagine attraverso la fase dionisiaca, no? Noi a quel punto siamo molto più sgamati, no? Quindi sappiamo che anche a fronte di un viso non perfettamente bello, secondo i canoni assoluti della bellezza, ci sono altri referenti, per esempio un bel sedere o delle belle tette o comunque un modo di fare, un modo di porsi, un modo di ancheggiare, una morbidezza di linee, un modo di offrirsi, un modo di guardare che possono sopperire, possono essere molto condizioni di attrazione molto più forte rispetto alla bella che a volte trasmette poco. Poi io mi ricordo avevo una cara vecchia amica, Flava, che mi diceva sempre le donne belle devono temere un tramonto precoce perché la bellezza dell'asino dura veramente molto molto poco, le spazzumatene. Quindi io temevo molto quando da ragazzo mi dicevano adesso ti presento una ragazza simpatica e molto intelligente, perché di solito era metafisicamente cozza. Di solito sono sempre parenti o zie che almeno in passato davano questo terribile messaggio, ci sarebbe una brava ragazza che tu dovresti conoscere. Beh sì, allora a quel punto si faceva, magari era pure ricca, capito? Magari era pure ricca, allora l'incastro era terribile, ricordava molto quei matrimoni combinati dell'Ottocento, no? In cui ci si sposava. Al contrario, scusami Guido, proprio una battuta prima di chiudere. Visto che parliamo tanto di donne, vorrei girare anche sull'aspetto esteriore maschile. Il vero seduttore è molto preoccupato di ciò che la natura gli ha dato come dotazione, cioè della sua bellezza, o anche lui riesce a compensare? Assolutamente, di solito il seduttore è tutt'altro. Guarda, Casanova era tutt'altro che bello, le immagini che abbiamo è vero che era molto alto, oggi come oggi, in cui soprattutto gli ideali estetici sono cambiati e vertono verso personaggi pubblici tipo Brad Pitt o George Clooney, Casanova avrebbe fatto probabilmente fiasco. Ma comunque, a parte questo, il seduttore fa leva sempre su degli aspetti che poco o niente hanno a che vedere col proprio aspetto fisico. Insomma, in genere punta molto su una seduzione di tipo cerebrale, intellettuale, mette in moto tutta una serie di armi che creano, come abbiamo spesso detto anche insieme, una trappola o una specie di meccanismo, no? di tortura, di sevizia erotica, al quale la seducenda di turno si inchina. Quindi allora mi sembra grande favore, ecco, d'aver capito in sintesi da Guido Guerrera che l'aspetto esteriore non è necessariamente una necessità nel campo della seduzione. Si può sedurre tranquillamente, fortemente, intensamente, anche se la natura non ci ha dotato di un bell'aspetto. Bene, 800 24 00 24, qualcosa abbiamo già capito in questa prima fase di trasmissione, che per sedurre o per essere sedotti o per entrare nel meraviglioso gioco della seduzione non è necessario essere belli. Questo dovrebbe confortare, ma già si sapeva, già è stato canonizzato in molteplici occasioni, però dovrebbe comunque confortare tutti quelli che ci stanno chiamando, colti da sconforto, colti da rassegnazione per il loro aspetto fisico non corrispondente a quelli che sono i grandi modelli della televisione, del cinema, dei personaggi patinati. Oscar, buongiorno. Buongiorno. Lei dice che essere belli non le è mai servito molto nella vita. A me sì, personalmente no, perché io le dico, ho 44 anni e da quando ne ho 15 che praticamente mi sento dire: ma tu sei un bel ragazzo, sei alto, un bel fisico, qua e là, sei anche simpatico, una cultura discreta, diciamo, cioè so parlare un po' di qualsiasi cosa, però a me, non dico sia la verità, non mi ha mai aperto le porte da nessuna parte. Cioè dicono: vabbè, ma sei bello, potresti puntare, che ne so, a donne belle qua e là. Io per fotomodelle non sono mai uscito, tanto per dirne una. Vabbè, ma le fotomodelle, guardi, l'ultima cosa che guardano è le persone belle, scusi, sono già belle loro, è un altro giro quello. Ma lei dice che non gli sono aperte le porte, dal punto di vista della professione o dal punto di vista della sua possibilità di collezionare amori? In tutte e due. Cioè, io ho tentato anche di fare lavori sul campo della moda, ho fatto qualcosa, ma non tanto, perché dopo, vabbè, si sa che... Ma lei cosa vuole fare, il fotomodello, qualcosa del genere? L'ho fatto anche quello. Ho fatto delle foto anche, però non è che abbia sfondato sia stato... Lei probabilmente non se l'è sentita di fare il grande passo, però scusi Oscar, le linee di potere, mi suggerisce Fabrizio Intonti e ridacchia Paolo Corleoni, è canonicamente maschile, sono gli uomini che comandano e gli uomini se ne fregano di un uomo bello, a meno che nel campo della moda, lei sa benissimo quanto sia variegato la possibilità di scelta di partner, lei avrebbe dovuto fare un grande passo e quindi probabilmente avrebbe avuto anche successo, non lo so. La cosa è che io sono dalla vecchia maniera ancora, dunque vabbè, quante ne vuole, lei vuole, come diceva il buon Ricucci, non si può fare quello, mi dispiace, purtroppo la sua bellezza era impiegata nel campo sbagliato. È chiaro che dal punto di vista professionale un uomo bello difficilmente potrà giocarsi la carta della bellezza, una donna bella se la può giocare indubbiamente. Mi chiami per smentirmi qualche ascoltatrice che l'essere belli e avvenenti non è un punto in più in un ambiente di lavoro in cui gli uomini hanno comunque in mano lo scettro del comando e comunque, per quanto siano aperti, per quanto mostrino delle educazioni politicamente correttissime, avranno sempre un occhio di riguardo, un occhio d'attenzione, una morbidezza che non hanno per le loro dipendenti più belle, naturalmente. Marta, buongiorno. Buongiorno. Niente, io come l'ascoltatrice che ha telefonato prima è bella. sono una, sì, una bella donna. Lo sa cosa mi fa piacere, Marta? Che finalmente molte ascoltatrici mi chiamano e mi dicono di essere belle. Avevo solo persone che mi chiamavano per dirmi faccio schifo, sono vecchia, sono da buttare via. E mi rendo conto che sarà la primavera incipiente, sarà il fatto che noi abbiamo dimostrato grande attenzione e curiosità per tutti i tipi di bellezza, che c'è stata questa vertigine di mutazione estetica nel pubblico, quindi sono felice. Prego, Marta. Niente, quindi sono una bella donna, ma è troppo ed è assolutamente importante il sentirsi bella. E io mi sono sempre, sempre sentita racchia. Come fa una bella a sentirsi racchia? Non lo so, è una questione psicologica, è una questione di sentire il proprio involucro distante dalla propria interiorità. Quindi lei, diciamo, ha interrotto i collegamenti, non ha mai sentito come tali le connessioni fra la scatola, la bella scatola di carne che la riveste, e la sua sensibilità interiore. Esatto, questa separazione o comunque un'interiorità che probabilmente aveva bisogno. Adesso diciamo che ho fatto un po' più, sono un po' più in equilibrio, no? Tra il dentro e il fuori, così. Probabilmente era una sensibilità che aveva bisogno di essere più accolta, più vista. Ma perché, Marta, scusi, la colpa la dà lei? Per me la colpa è del mondo esterno, colpa delle persone che lo hanno saputo trovare il pulsante giusto o la leva giusta per farle sentire ciò che la natura le ha dato. Sì, probabilmente il mondo esterno non mi ha, come dire, saputo... Il mondo, gli uomini, diciamolo francamente. Sì, vabbè, poi soprattutto gli uomini, anzi mi dava quasi fastidio proprio per questa divisione. E questo fatto degli uomini, diciamo... come dire, che mi guardavano o mi desideravano e invece sentirmi invece non capita, non vista, non compresa. Quindi io ero quasi arrabbiata con il mio corpo, ero critica con il mio corpo. Adesso appunto, come ho fatto un po' più la pace e sono più vicini questi due aspetti di me. E poi un'altra cosa volevo dire che mi sono sentita invece molto femminile, molto donna attraverso il desiderio degli uomini, cioè quando gli uomini mi interessavano, quando comunque attiva un qualche cosa di coinvolgente, ecco, in quel momento io mi sentivo donna, mi sentivo femmina. Non so se ci si può sentire femmine senza un occhio maschile che ci vive come tali, come, non lo so. Vabbè, quindi vediamo se ho capito bene, Marta. Finché gli uomini si limitavano a una semplice valutazione estetica, una semplice provocazione, un semplice guardarla le dava soltanto fastidio. Quando gli uomini riuscivano a trovare la chiave segreta per conoscere la sua intimità, lei si rende conto e poi valeva la pena di avere un corpo attraente, perché un corpo attraente significa scatenare desiderio in un'altra persona. Sì, più o meno, diciamo. No, forse volevo mettere più risalto quando io sentivo, perché io ero sempre un po' sopraffatta. Ah beh, allora, perché se, chiaro, se lei per strada le fa un complimento a una persona che lei non nemmeno guarda, quando c'è corrispondenza, quando lei sentiva tecnicamente allora, portata, allora ha capito che vale la pena essere bella. Attendeva la mia femminilità e la mia, come dire, la mia maggiore vicinanza al mio corpo. E in quel caso era ben contenta poi di mettere sul piatto qualcosa che facesse gola all'altra persona. Sì, sì, sì. Certo. Quindi la bella è fortunata. Come? La bella quindi è fortunata. Ma dipende appunto da... Sì, no, sicuramente non è uno svantaggio, però sicuramente non è detto che essere belli vuol dire essere felici o facilitati. Certo, manco nemmeno essere ricchi, certo. Graziella, buongiorno. Sì, buongiorno. Anche lei è bella. Ma sempre mi hanno detto... Anche io ho sempre un rapporto con lo specchio continuo, forse o mi ci sono abituata oppure non vedo tutta questa straordinaria cosa. Vedo, guardi, finché lo dicono gli altri, la cosa ci conforta e ci piace crederlo, poi non ci interessa perché lo dicano. Certo. La cosa peggiore è sentirsi belli e il mondo ti dice che fai schifo. Questa è una cosa veramente da cui è difficile uscire. Io penso che poi qui vada in gioco qualcos'altro, perché difficilmente, se siamo obiettivi, non so, un momentino si riesce a pensare, credo, nella mia piccola capacità di interpretare, e magari mi vedo, non sono così bella, sono così, però riesco. Vabbè, andiamo al dunque. Lei ha detto, mi hanno sempre detto bella, ma io, Dio me ne guardi, non me ne sono mai approfittata, ma è proprio sicura? Ma direi, ma neanche approfittata, forse non so se ho detto veramente questa frase, comunque direi non è il fatto di aver, diciamo che non mi ha mai aperto le porte, non mi è stato dato nulla di gratuito per quello che riguarda appunto l'aspetto esteriore. Eh sì, perché bisogna anche dare qualcosa in cambio, non basta essere belle, scusi la crudezza. Non ho dubbi, non parlo solamente dell'interscambio personale magari con un partner, con un amico, così, ma a volte c'è chi gioca proprio su questo fatto estetico esteriore per poter poi, non so, usiamo di nuovo la parola, approfittarsi di una situazione, non so se riesco. Va bene, sono felice in conclusione che oltre ad avere ascoltatrici belle, ho anche ascoltatrici di castigati e morigerati costumi, quindi faremo in tempo a corromperli anche seppur lievemente, visto che la primavera incipiente ci porta in questa direzione. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog 2.0.